sicuramente è una notizia che va nella direzione di quanto auspichiamo, forse un po' tardiva perché non bisognava solo attendere fino all'inizio dell'invasione di terra a Rafah. Già questi ultimi mesi hanno dimostrato come l'azione militare israeliana fosse molto problematica, borderline tra genocidio e pulizia etnica, e sicuramente che abbia colpito in maniera indiscriminata e criminale i civili. Per cui è chiaramente un piccolo segno, bisogna capire se è solo, come dire, un'azione temporanea, se è solo qualcosa che è stato detto tanto per calmare le acque o se veramente diventerà una scelta definitiva e robusta. Sicuramente il flusso di armi verso quel conflitto, in particolare verso le forze armate israeliane, è stato deleterio e problematico soprattutto per i civili. La rete italiana Pace e Disarmo, della quale appunto lei è portavoce, si unisce ad altre 250 organizzazioni di tutto il mondo che lanciano appunto questa mobilitazione per chiedere lo stop all'invio di armi a Israele. Volevo chiederle come si articolerà questa mobilitazione, se avete delle idee per smuovere il dibattito concrete. Si tratta di un rilancio, nel senso che fin dall'inizio, proprio sulla base di quanto conosciamo dei conflitti, anche sulla base di quelle che sono le norme internazionali sul commercio di armi, penso al Trattato internazionale di TTIP in particolare, noi avevamo chiesto che si bloccasse il flusso di armamenti. Ovviamente abbiamo cercato di capire quanto l'Italia fosse coinvolta in questo, il nostro governo ha in realtà bloccato nuove licenze, nuove autorizzazioni e ha continuato a mandare parti di vecchie autorizzazioni solo caso per caso, anche se non sappiamo quali sono questi casi specifici, ma ovviamente al di là della posizione della situazione specifica italiana il quadro è più complesso e tutta la società civile già numerose volte aveva chiesto questo stop. Noi l'abbiamo chiesto poi sull'Italia anche insieme ad Amnesty International, Oxfam, Save the Children, AOI e altri. Negli ultime settimane, proprio in vista dei piani israeliani di invasione via terra tramite Rafah, le organizzazioni della società civile internazionale hanno ripreso in mano questa richiesta e ad oggi questo documento è sottoscritto da oltre 250 organizzazioni. Quello che possiamo fare noi è cercare di premere sui governi affinché capiscano che non solo le nostre richieste, ma proprio le norme, le regole, le analisi che da sempre si fanno sui flussi di armi verso i conflitti devono o dovrebbero quantomeno spingerli a prendere decisioni molto nette in questo senso. E peraltro ovviamente un blocco delle forniture militari non sarebbe solo importante di per sé perché toglierebbe risorse per i bombardamenti e per gli attacchi, ma potrebbe funzionare da grande leva di pressione nei confronti appunto del governo israeliano affinché decida di sedersi al tavolo delle trattative e sicuramente decida di smettere quello che finora non è stato un'azione militare che ha portato il risultato sperato o quantomeno dichiarato da Israele, cioè il salvataggio degli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas e l'eradicazione del gruppo Hamas terroristico. Al contrario, ha solo portato morte e distruzione per la popolazione civile e questo è assolutamente inaccettabile. Tra le vostre richieste si legge anche l'intenzione di chiedere che i responsabili delle violazioni del diritto umanitario internazionale e dei crimini di atrocità siano chiamati a rispondere. Quindi le chiedo, secondo lei dovrebbero essere predisposte delle sanzioni per Israele da parte della comunità internazionale? Noi pensiamo che tutto quello che possa far finire le azioni militari e far partire un lungo, difficile, non ci nascondiamo dietro un dito, percorso negoziale, ma che prima o poi deve iniziare, se no non arriverà mai, tutto quello che si può fare per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo si deve mettere in pista. Quindi sicuramente lo stop alle forniture militari è un primo passo perché toglierebbe, come dire, benzina all'incendio di questo conflitto e poi tutto il resto che si può mettere in pista. Certamente le pressioni di varia natura sul governo israeliano devono essere forti e è ovvio che, visto che abbiamo iniziato questa chiacchierata per gli Stati Uniti, che sono proprio gli Stati Uniti ad avere in mano le carte maggiori per poter esercitare questa pressione, vista la connessione politica, economica, finanziaria, ma soprattutto militare che da sempre ha con il governo di Israele. È ovvio che ai governi invece europei noi chiediamo di prendere una posizione netta, di premere sugli Stati Uniti in questa direzione e di non farsi invece trascinare in tutta una serie di trucchi e ragionamenti sbagliati dati dalle polemiche sul falso antisemitismo che per esempio hanno portato invece allo stop degli aiuti verso l'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi. Ecco, bisogna iniziare a rendersi conto, e purtroppo avrebbe dovuto rendersene conto già da tempo, che è tutta un'altra direzione in cui andare, e quello che possiamo fare noi è continuare a fare richiesta e pressione sulla nostra politica e sui nostri governi affinché le condizioni per arrivare a un tentativo di pace che sia negoziata e non armata, ovviamente, perché da quello non potremo ottenere nulla, noi lo faremo. La vostra posizione è quindi sempre quella contraria all'invio di armi, anche parlando di altri conflitti più in generale? Sì, noi abbiamo visto, e purtroppo proprio i due conflitti maggiori che sono posti sotto i nostri occhi, per non parlare di tutti gli altri che invece sono ignorati, lo dimostrano ulteriormente. Dall'invio di armi, da un rafforzamento della soluzione finta militare, non potrà mai arrivare una pace, a meno che non si aspetti che ci sia una distruzione totale di una delle due contendenti o di entrambi, ma quella non è pace, quella è ricostruire dopo appunto una devastazione che intanto ha portato però non solo vittime dirette, ma anche a una distruzione dei possibili percorsi di pacificazione e anche ovviamente anche a un impatto devastante sull'ambiente.